Intanto, Giuda Maccabeo e i suoi compagni, passando di nascosto nei villaggi, invitavano i parenti, raccogliendo in più coloro che erano rimasti fedeli al giudaismo. Così misero insieme circa 6.000 uomini. Alzarono allora suppliche al Signore, perché riguardasse il popolo da tutti calpestato, avesse pietà del tempio profanato da uomini empi, usasse misericordia alla città devastata e prossima ad essere rasa al suolo, porgesse orecchio al sangue che gridava al suo cospetto, non dimenticasse l'iniquo sterminio di fanciulli innocenti e le bestemmie pronunciate contro il suo nome e mostrasse sdegno contro la malvagità. Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile ai pagani, mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia. Piombando inaspettatamente su città e villaggi, li incendiava e, impadronendosi delle posizioni più opportune, metteva in fuga non pochi dei nemici, scegliendo di preferenza la notte come un tempo favorevole a queste incursioni. La fama del suo valore risuonava dovunque. Filippo, osservando che quest'uomo a poco otteneva vantaggio e progrediva continuamente nei successi, scrisse a Tolomeo, stratega della cele Siria e della Fenicia, perché intervenisse a favore degli interessi del re. Quegli incaricò Nicanore, figlio di Patroclo, uno dei primi amici del re, e lo inviò, mettendo ai suoi ordini gente d'ogni nazione, in numero non inferiore a 20.000, per sterminare totalmente la stirpe dei giudei. Gli associò anche Gorgia, un generale di professione ed esperto nelle azioni belliche. Nicanore stabilì di pagare il tributo che il re doveva ai Romani, che era di 2.000 talenti, con la vendita degli schiavi giudei. Anzi, spedì senz'altro un avviso alle città della costa, invitandole all'acquisto di schiavi giudei e promettendo di barattare 90 prigionieri per un talento. Non immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui. Giuda fu informato della spedizione di Nicanore e annunciò ai suoi uomini la presenza dell'esercito. Allora i paurosi e i diffidenti della giustizia di Dio fuggirono, portandosi lontano dalla zona. Altri vendevano tutte le cose che erano loro rimaste e insieme pregavano il Signore di salvare coloro che l'empio Nicanore aveva venduti prima ancora dello scontro. Questo, se non per loro merito, almeno per l'alleanza con i loro padri e per riguardo al suo glorioso nome invocato sopra di loro. Il Maccabeo poi, radunando i suoi uomini in numero di 6.000, li esortava a non scoraggiarsi davanti ai nemici, né a lasciarsi prendere da timore di fronte alla moltitudine dei pagani venuti ingiustamente contro di loro, ma a combattere da forti, tenendo davanti agli occhi le violenze da essi empiamente perpetrate contro il luogo santo e lo strazio della città messa a ludibrio e ancora la soppressione dell'ordinamento politico degli antenati. Costoro, disse, confidano nelle armi e insieme nel loro ardire. Noi confidiamo nel Dio Onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di Lui e il mondo intero con un sol cenno. Ricordò loro distintamente gli interventi divini al tempo degli antenati, quello avvenuto contro Sennacherib quando morirono 185.000 uomini e quello successo in Babilonia nella battaglia contro i Galati, quando vennero nella necessità di battersi, essendo in tutto 8.000, insieme con 4.000 macedoni, e mentre i macedoni soccombevano, gli 8.000 sterminarono 120.000 uomini con l'aiuto venuto loro dal cielo e trassero un grande vantaggio. Con queste parole li rese coraggiosi e pronti a morire per le leggi e per la patria. Poi divise in qualche modo l'esercito in quattro parti. Mise al comando di ogni schieramento i suoi fratelli, Simone, Giuseppe e Jonathan, affidando a ciascuno 1500 uomini. Fece inoltre leggere da Eleazzaro il libro sacro e, data la parola d'ordine aiuto di Dio, postosi a capo del primo reparto, attaccò Nicanore. L'Onnipotente si fece in realtà loro alleato ed essi uccisero più di 9.000 nemici, ferirono e mutilarono nelle membra la maggior parte dell'esercito di Nicanore e costrinsero tutti a fuggire. Si impadronirono anche del denaro dei mercanti convenuti per acquistarli. Inseguirono poi i nemici per un pezzo, ma tornarono indietro impediti dall'ora tarda. Era la vigilia del sabato e per questa ragione non protrassero l'inseguimento. Raccolte le armi dei nemici e tolte loro le spoglie, passarono il sabato benedicendo incessantemente e ringraziando il Signore che li aveva fatti giungere salvi fino a quel giorno, fissandolo per loro come inizio della sua misericordia. Dopo il sabato distribuirono parte delle spoglie ai sinistrati, alle vedove, agli orfani, il resto se lo divisero loro e i loro figli. Compiute queste cose, alzarono insieme preghiera al Signore misericordioso, scongiurandolo di riconciliarsi pienamente con i suoi servi. Combatterono ancora con gli uomini di Timoteo e di Bacchide, uccidendone più di 20.000, e divennero padroni di alte fortezze e distribuirono le molte spoglie, facendo parti uguali per sé, per i sinistrati, per gli orfani, per le vedove e anche per i vecchi. Raccolte le armi dei nemici, con molta cura riposero il tutto in luoghi opportuni. Il resto del bottino lo portarono a Gerusalemme. Uccisero anche l'ufficiale preposto alle guardie di Timoteo, uomo scelleratissimo, che aveva fatto soffrire molto i giudei. Mentre si celebrava la vittoria in patria, bruciarono coloro che avevano incendiato le sacre porte, compreso Callistene, che si era rifugiato in una casupola. Ricevette così una degna mercede della sua impietà. Il tristissimo Nicanore, colui che aveva convocato 1.000 mercanti per la vendita dei giudei, umiliato, con l'aiuto di Dio, da coloro che erano da lui ritenuti insignificanti, deposta la splendida veste, fuggiasco come uno schiavo attraverso la campagna e ormai privo di tutto, arrivò ad Antiochia, già troppo fortunato di essere sopravvissuto alla rovina dell'esercito. Così, chi si riprometteva di assicurare il tributo per i romani con la vendita dei prigionieri in Gerusalemme, confessava ora che i giudei avevano un difensore, che i giudei erano per questa ragione invincibili, perché obbedivano alle leggi stabilite da lui.